Allora, siamo di nuovo in collegamento con la piazza. Intanto ciao. E poi così con te volevo un po' trarre le conclusioni allora di questa giornata, mentre immagino che continuate a camminare verso San Lorenzo. Stiamo arrivando verso San Lorenzo. Questa era la concentrazione Notav, l'assemblea popolare Notav in piazzale, nel piazzale della stazione di Tiburtina. Abbiamo fatto questa iniziativa che fa parte di una 3 giorni di solidarietà Notav contro la repressione, in solidarietà con i nostri compagni che sono incarcerati con accuse di terrorismo. Se ci sta sentendo da Radio Onda Rossa, un saluto fortissimo a Chiara e a tutto il corteo che sta a Rebibbia, e ovviamente un saluto va idealmente anche agli altri compagni che sono reclusi in altre città. E abbiamo fatto un'assemblea in cui abbiamo spiegato le nostre ragioni di fronte a tutti i pendolari che vivono la stazione di Tiburtina. C'è stato anche un intervento di Luca Ba, che è stato questa mattina anche Radio Onda Rossa, e abbiamo spiegato le nostre ragioni, e cioè adesso stiamo facendo quello che si fa a tutti i cortei Notav, intonando gli slogan dicendo che la Valcusa non ha paura, ma anche noi qui in questo metropoli non abbiamo paura e facciamo nostra la lotta Notav. Una lotta Notav a cui appunto si sono unite anche le voci delle tante realtà che lottano per l'emergenza abitativa, in cui insomma abbiamo visto in questi giorni anche come la repressione ha colpito i lavoratori, i disoccupati di Napoli. Insomma, non è mancato di farsi sentire, così come non è mancato oggi la presenza e la capacità di mettere insieme queste cose. Esatto, sì, infatti siamo in tanti, saremo più o meno 600 e sono stati fatti anche degli interventi in solidarietà con tutti gli arrestati dell'operazione per la giornata del 31, e perché insomma quello che volevamo dire è che la Valcusa tra le tante cose ci ha insegnato che la lotta è una sola e che rispondere alla solidarietà, rispondere come solidarietà va risposto tutti insieme con la forza che questa lotta ha saputo esprigerare, e che la lotta che è arrivata ormai da 20 anni nel panorama delle lotte italiane con l'immaginario del colpo di trombola di una persona piccola contro un Golia gigante che è lo Stato. E quindi in questa immaginario noi ci vogliamo stare, vogliamo portare avanti questo percorso. Ricordiamo che il 22 ci sarà il corteo in ricordo di Valerio e di Carla Verbano, in cui parteciperemo come uno spezzone Notav, e che il 23 ci sarà un presidio di solidarietà chiara a tutte le detenute del carcere di Rebibbia. E quindi invitiamo tutte e tutti. Va bene, allora io ti ringrazio, intanto così ci hai fatto un po' appunto il riassunto di questa bella assemblea, ti saluto e grazie ancora. Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao.